in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi ci sono alcuni temi che compaiono su tutte le prime pagine e altri invece che vengono approfonditi solo a seconda dai singoli giornali. Per esempio, il Corriere della Sera ha ottenuto, grazie alla sua cronista di punta di giudiziaria, che è Fiorenza Sarzanini, delle anticipazioni sulla famosa o famigerata relazione del ministro dell'interno Alfano su Roma e sull'inchiesta Mafia Capitale. È una relazione più volte annunciata, avrebbe già dovuto essere presentata, poi si è pensato che questo slittamento fosse dovuto al fatto che era in corso il rimpasto della giunta di Marino. Il rimpasto, lo sappiamo, è avvenuto ieri, però di questa relazione ancora ufficialmente non c'è stata presentazione. Però il Corriere, come vi dicevo, ha delle anticipazioni e quindi il titolo: Roma, le accuse del Viminale. Viminale naturalmente sta per Ministero dell'Interno. E oggi tra l'altro si vota, è un argomento collegato in un certo senso, sul caso Azzollini, il parlamentare dell'NCD che potrebbe essere il senatore proprio, che potrebbe essere sul quale il Parlamento deve votare per l'arresto. Le accuse che gli si fanno sono gravissime e il capogruppo al Senato del PD Zanda ha detto che i senatori del PD possono votare secondo coscienza. Altre due cose interessanti dalla prima pagina del Corriere della Sera: una intervista con Mario Monti di Paolo Lepri. Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto di queste indiscrezioni sul fatto che a Mario Monti sarebbe stato affidato l'incarico di studiare un euro tassa che poi finanzierebbe una serie di cambiamenti nella governance dell'Unione Europea, e Paolo Lepri, che lo ha intervistato, ha ottenuto una secca smentita, su cui il Corriere della Sera titola: Mario Monti, non preparo un euro tassa. E poi vi segnalo il commento sempre interessante, capace di cogliere il quadro generale di questioni molto complesse, o magari di ricordarci appunto che oltre alla cronaca ci sono tanti altri fatti dietro. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, continua poi a pagina 25, l'approfondimento di Sergio Romano, storico collaboratore del Corriere della Sera, ma poi è stato anche ambasciatore in vari paesi per tanti anni. La svolta ambigua di Erdogan: la questione naturalmente è quella, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, dell'avvicinamento tra il premier Erdogan e gli Stati Uniti. La Turchia ha concesso agli Stati Uniti l'utilizzo di alcune basi da cui partono gli attacchi alle postazioni dello Stato Islamico, in cambio però ha ottenuto di fatto una sorta di lascia passare nel comportamento verso il PKK, che è il partito dei curdi, storico nemico di Erdogan, e Erdogan continua a definire il PKK un partito di terroristi e si rifiuta di dialogare. È appunto una specie di lascia passare, un do ut des, questo accordo con gli Stati Uniti, che sembrano, lo dico in modo banale, però è un po' la questione questa, disposti a chiudere un occhio anche sull'atteggiamento che il governo turco ha verso i curdi, in cambio appunto di una sorta di alleanza contro invece lo Stato Islamico. La Repubblica titola invece sulla sanità. Come avete sentito, come è veramente l'argomento del giorno, è tutto partito un po' dall'anticipazione di Gutgeld, il consigliere economico di Renzi, che aveva anticipato questi tagli alla sanità in un'intervista alla Repubblica domenica. Poi c'è stata la discussione in Senato, in Parlamento, su questi tagli, e adesso se ne parla in modo sempre più approfondito, anche perché i tagli che sono stati approvati ieri sono stati approvati con la fiducia, tanto per cambiare, quindi di nuovo una misura che riguarda tantissime persone, approvata però con la fiducia, che è uno strumento, lo sappiamo, che taglia fuori tutta una serie di consensi, perché viene sia approvata però in un modo che forse non è così, non riflette un consenso molto ampio all'interno del Parlamento. Dalla prima pagina della Repubblica però vi segnalo una fotonotizia diversa da quella degli altri, perché poi c'è un'inchiesta all'interno. Caldo record, la grande strage dei pesci. Da Orbetello i corrispondenti della Repubblica ci raccontano che ci sono state soffocate da questo caldo, che naturalmente ha riscaldato anche tutti i nostri mari, 200 tonnellate di orate e spigole. Il commento è di Guido Ceronetti, scrittore che spesso riflette sulle grandi questioni opinioni, sui massimi principi, e lo fa però sempre in modo, appunto, con la sua grande cultura letteraria. Il titolo è La crudeltà dell'estate. E dalla prima pagina della Repubblica anche un interessantissimo approfondimento che poi trovate, doppio approfondimento che trovate alle pagine 12 e 13 di Federico Rampini e Giampaolo Visetti. Federico Rampini è stato per tanti anni corrispondente della Cina di Repubblica, ora è tornato negli Stati Uniti, però sicuramente la conosce molto bene. Visetti invece è attualmente in Cina e la storia è quella di quello che sta succedendo nelle borse. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, la borsa di Shanghai in particolare continua a perdere e c'è questo rischio di bolla speculativa in Cina e il titolo è trovo molto bello, il Draghi cinese, quindi non il drago cinese ma il Draghi cinese inteso naturalmente come Mario Draghi, italiano e ora in questo momento presidente della Banca Centrale Europea, che manca a Pechino e perché il crollo delle borse asiatiche fa paura al mondo. Sole 24 Ore titola sulla grande notizia economico-finanziaria di ieri, cioè la cessione di Italcementi alla tedesca Heidelberg. C'è un'OPA, cioè un'offerta pubblica di acquisto sul flottante, cioè su tutto quello che su tutte le azioni che sono sul mercato a 10,60 euro, quindi complessivamente questo accordo vale circa 7 miliardi. Per il 45% l'imprenditore incassa, quindi vende il 45% e incassa 1,7 miliardi, avrà fino però conserverà fino al 5,3% del nuovo big del calcestruzzo. Il commento di Antonella Olivieri lo trovate a pagina 13, un'operazione a prezzi stellari, e un'altra analisi più Antonella Olivieri è una collega della finanza, mentre un'analisi un pochino più economica, più industriale di Paolo Bricco, anche questa inizia in prima pagina e continua a pagina 2, rinunciare al controllo per garantire la crescita. Moltissimi anche gli approfondimenti che vedremo anche dopo quando entriamo all'interno dei giornali sulle questioni della sanità, perché appunto c'è stato questo ok, come vi ho detto ieri, a una prima stretta da 2,3 miliardi e vedremo quali sono le prime ipotesi sulle conseguenze. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, che ovviamente titola sul rimpasto annunciato ieri da Marino. Ultima sfida per Marino, il sindaco presenta la sua giunta bis che ha 4 nuovi assessori, perché sapete che nei giorni scorsi ne aveva persi 2 molto importanti, quello al trasporti e quello al bilancio, ma ne aveva anche persi 2 precedentemente. A Renzi ha risposto Renzi: mi giudichi dai fatti, e SEL, il partito di Nichi Vendola, come preannunciato è uscito dalla maggioranza. Il premier ha risposto fiducia a tempo, serve la svolta in pochi mesi. Ma vi segnalo dal Messaggero anche un intervento proprio a firma di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, sulla questione della sanità. Il titolo è: il diritto alla salute va sostenuto con le assicurazioni integrative. Vi leggo le prime righe, poi lo trovate a pagina 7. Il dibattito di questi giorni sul futuro del modello sanitario e sulla sua spesa è una questione di primaria importanza per il paese, per ciascuno di noi e per la nostra economia. La salute è infatti un diritto inalienabile dell'uomo. E poi ho già detto a Irene che poi glielo passerò, può essere uno spunto di discussione questo delle assicurazioni integrative, che in Italia non sono ancora molto presenti, in altri paesi lo sono, probabilmente si tratterà di trovare un equilibrio. La Stampa titola proprio a sua volta, pur essendo un giornale di Torino, però sceglie di titolare su Roma, sulla giunta Marino. Marino rifà la giunta, compromesso nel PD, ma la fotonotizia, come del resto anche sul Corriere della Sera, è di Tania Cagnotto, la nostra tuffatrice, che 40 anni dopo l'oro di Klaus Di Biasi ha vinto ai mondiali di Kazan nel trampolino da un metro, appunto, vinto l'oro. Deve essere stato difficile ieri per i photo editor scegliere la foto giusta, perché sono tutte spettacolari. Infatti la Stampa e il Corriere ne hanno 2 diverse e tra l'altro la cosa divertente è che Tania Cagnotto ha battuto le due tuffatrici cinesi che erano favorite, e per lei tra l'altro è l'ottava modalità dei mondiali. Come ieri, anche oggi ho trovato il Buongiorno di Massimo Gramellini, fatto molto bene, insomma, in poche righe. Gramellini quasi sempre riesce a riassumere una questione mettendoci dei dubbi, lo fa con il giusto grado e tono di ironia, mai troppo esagerato. E allora ve lo leggo anche oggi, si intitola Il signor mi rifiuto. La proposta di cominciare la bonifica di Roma dal marciapiede davanti a casa propria, avanzata dall'attore Alessandro Gassman, sta facendo emergere per contrasto un altro tipo di italiano, il signor mi rifiuto, figura trasversale che va dai commentatori dei giornali di destra all'archetipo dell'intellettuale di sinistra, il professor Asor Rosa. La sua tesi è che il cittadino non deve sostituirsi ai turbini perché già paga le tasse. Questo richiamo al ruolo virtuoso delle imposte nel paese che vanta il maggior numero di evasori fiscali suona vagamente surreale. Ma pur di non prendere in mano una ramazza e sentire la città come cosa e casa sua, il signor Mi Rifiuto è pronto a sciorinare tutto il repertorio dello scaricabarile. Ironizza sul fatto che Gassman abbia lanciato il suo appello dal Sud America, dove sta lavorando, anziché precipitarsi qui con guanti e paletta, e sposta l'attenzione sugli stranieri che sporcano la città, fingendo di non sapere che l'essere umano si adegua al panorama circostante e che, come a nessun italiano verrebbe in mente di straziare di cartacce un immacolato parco inglese, cosa è così è comprensibile che un inglese non si senta in colpa se imbratta una piazza di Spagna già ridotta a ciofeca. Le obiezioni del signor Mi Rifiuto, formalmente ineccepibili, sono alibi per continuare a rimanere come siamo, inerti e lamentosi. Ignorano l'effetto contagioso dell'esempio. Chi contribuisce in prima persona diventa più geloso del bene comune e più esigente verso gli amministratori. Pulisci davanti all'uscio di casa e tutta la città sarà pulita, recita un proverbio cinese o forse scandinavo, sicuramente non italiano. Ma veniamo alle prime pagine di Libero il Giornale. Bloccano l'Italia, Renzi li premia. Questo è un riferimento al decreto enti locali, di cui poi parleremo perché viene trattato da altri punti di vista anche in altri giornali. Comunque questo decreto è lo stesso dove si taglia la sanità e Libero è molto polemico perché si è detto che non sarebbero stati tagli orizzontali, invece in realtà sono così, cioè sono tagli anche un po' con l'accetta. E tra l'altro ci sono poi, come in tutti questi decreti, come in molti di questi decreti spesso succede, entra dentro di tutto, per esempio dei soldi per di nuovo i forestali che vengono definiti socialmente utili dalla Calabria e poi per esempio ci sono anche dei premi ai dirigenti, pensate della sovrintendenza di Pompei, dove sappiamo ci sono stati gli scioperi. Insomma, è sicuramente uno spunto polemico quello di Libero, però guardare cosa finisce dentro a questi decreti è sicuramente sempre utile. Il giornale: Roma brucia, Renzi scappa, quindi il titolo è sulla questione della giunta Marino e su questo tuttora poca chiara presa di posizione di Renzi, che dice vi diamo fiducia però vogliamo i risultati, insomma, e non è chiaro appunto quanto tempo abbia a disposizione Marino per dimostrare che a Roma ci può veramente essere una svolta. In ogni caso vi segnalo anche, ormai siamo alla quarta puntata, sono sempre una più bella dell'altra, questa iniziativa delle lettere d'amore del giornale. Oggi è una lettera d'amore di George Byron, un altro poeta inglese, due giorni fa era stato John Keats, e poi c'è sempre, come sapete, il commento, la risposta impossibile, se vogliamo, affidata invece a una persona vivente, perché le lettere sono, almeno quelle pubblicate fino adesso, sono tutte di persone che non ci sono più. E allora oggi la risposta è di Chiara Gamberale, la scrittrice, tra l'altro gli ascoltatori di Radio 24 la conoscono, è stata in passato anche una voce di Radio 24. Vi segnalo da leggere tutto, io adesso qui non ho il tempo, però veramente sintetizza molto bene la questione che, come ho già detto ieri, per me è molto triste da giornalista, che è quella della vicenda delle intercettazioni, probabilmente a questo punto possiamo definirle fantasma, o meglio che non esistono, di Crocetta e Tutino, quella intercettazione in particolare dove si ipotizzava che Tutino avesse detto che Lucia Borsellino doveva fare la fine di suo padre, cioè essere assassinata dalla mafia, e si ipotizzava che Marino non avesse nemmeno reagito, che Crocetta non avesse battuto ciglio né avesse detto niente di fronte a una frase talmente enorme da non potersi non commentare. E questa intercettazione appunto probabilmente non esiste. Allora Alessandro Sallusti, che ripercorre l'episodio, titola il suo commento: quella stampa che il bavaglio se lo mette da sola. Perché? Perché ieri io forse non l'ho sottolineato abbastanza, ma ci ho poi pensato molto durante la mattinata. Ieri effettivamente questa notizia che i due giornalisti autori di questo scoop, i due giornalisti dell'Espresso, sono ora indagati, di questo abbiamo parlato perché su alcuni giornali c'era la notizia, sono ora indagati per falso e addirittura per calunnia. Ebbene, ieri sulla Repubblica, che fa parte del gruppo a cui appartiene anche l'Espresso, la notizia non c'era, c'era sulla stampa con un certo risalto, il giornale Libero ci aprivano, e su questo Alessandro Sallusti appunto giustamente commenta: è un'anomalia veramente che salta all'occhio. Ci fermiamo però un attimo, ci ritroviamo subito dopo per le altre prime pagine dei giornali di oggi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali e tra l'altro li segnalerò anche a Irene, stanno arrivando tantissimi messaggi sul tema che verrà trattato poi in spunti di vista, che è la sanità, i tagli alla sanità, la riforma della sanità. Ci scrive per esempio un'ascoltatrice che vive da molto tempo in Olanda, che lì per esempio è obbligatoria l'assicurazione sanitaria di cui abbiamo parlato, perché prendendo spunto dall'intervento di Giorgio Squinzi sul Messaggero, che dice appunto è ora che anche in Italia si dia più spazio alla parte privata, alle assicurazioni private. Naturalmente questo significa che poi bisogna anche cercare di capire che cosa può passare il servizio pubblico e che cosa invece definire magari facoltativo o a discrezione del medico o del paziente, e che quindi viene coperto dalle assicurazioni private. Tutto molto molto complesso. Speriamo che questa, io posso solo dire da figlia di medico, che spero che questa riforma venga fatta con il massimo del buon senso possibile, perché poi ci scrive anche un altro ascoltatore, dice sono un trapiantato, ho bisogno di molte cure mediche ed è difficile, sempre più difficile farsele passare dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali. Il Fatto Quotidiano, che ieri nell'edizione di ieri non l'abbiamo citato perché così sono un po' refrattaria sempre a citare i racconti in prima persona dei giornalisti su fatti personali, ma comunque Marco Travaglio, che è il direttore del Fatto Quotidiano, ieri raccontava una sua disavventura su un treno, sua e di due suoi colleghi su un treno di Trenitalia, e oggi torna sul tema, dice di essere stato alluvionato addirittura da proteste dei lettori su questioni analoghe di servizi nei treni. Purtroppo più o meno credo tutti li conosciamo, e quindi c'è un approfondimento sulla situazione del trasporto pubblico e in particolare delle ferrovie. Due i pezzi, FS 7 miliardi buttati se si privatizza in blocco. Questa è infatti una delle ipotesi sul tavolo del governo, è di privatizzare le ferrovie dello Stato e ricavarne appunto circa 7 miliardi, però secondo il presidente Messori sarebbe un po' una svendita. E poi tutto un approfondimento sui ritardi e sui disservizi, ritardi da 200 minuti, sportelli che cadono. Soprattutto, lo sappiamo, spesso questi disservizi colpiscono non tanto i treni ad alta velocità, ma quelli dei pendolari. All'interno, devo dire, forse il Fatto Quotidiano è uno dei pochi giornali che torna insistentemente sulla questione di Crocetta, di cui abbiamo parlato prima, e quindi un approfondimento a pagina 3. Da bufala a spy story, per Crocetta ritorna la stagione dei veleni. L'Avvenire ha un titolo completamente diverso dagli altri, è Sud senza crescita, perché i dati sul lavoro, come sempre soprattutto in Italia, confermano questo grande divario tra il nord e il sud del nostro paese. E quindi, dopo le stime del Fondo Monetario Internazionale, ne abbiamo parlato ieri, che dice che ci vorranno 20 anni per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, e con pre-crisi in generale si intende pre-2008, perché nel 2008 ci fu il grande crack della Lehman Brothers, che innescò la crisi economico-finanziaria da cui forse non siamo ancora del tutto usciti. Insomma, dopo le stime FMI, Confindustria pessimista sul Mezzogiorno, e l'ex ministro Giovannini, più investimenti, la piccola impresa non basta. La fotonotizia diversa da quella di tutti gli altri giornali, torna sulla questione dei migranti, che come diciamo sempre magari esce dalla cronaca, ma questo non significa naturalmente assolutamente che gli sbarchi o le traversate diminuiscano. Odissea migranti, chi annega e chi è inseguito, e nello scavo appunto ci racconta ancora con un reportage personale, con un reportage in prima persona, volevo dire, torna a darci una finestra su questo grande universo parallelo, se vogliamo, perché continua a accadere, ripeto, noi a volte lo guardiamo, gli diamo uno sguardo, a volte invece ci occupiamo d'altro, delle migrazioni, soprattutto quelle che ci toccano più da vicino, cioè quelle nel Mediterraneo. Il Manifesto ha come sempre un titolo un po' immaginifico e con una foto che cercano sempre di abbinare per rendere ancora più appunto particolare il titolo della prima pagina. Qui è i pretoriani, la foto è quella di quei, chi è stato a Roma li conosce bene, quei figuranti, possiamo dirli, tutti quei personaggi che ruotano intorno al Colosseo vestiti o da gladiatori o comunque in abiti da antichi romani. Il titolo: Renzi avrebbe voluto le dimissioni di Marino, il sindaco invece resta, il commissario Orfini, sapete, è il commissario appunto, è la persona scelta da da Renzi per mettere ordine nel Partito Romano e in tante altre questioni di scarsa trasparenza del PD. Quindi il commissario Orfini gli mette in giunta la guardia pretoriana del PD, 4 nomi, 3 ex assessori e un ex sottosegretario, che è poi Rossi Doria alla cultura. Il titolo dell'Unità: e ora, virgola, damo se da fa. Scusate, ma io non riesco a leggere con dignitosamente, insomma, però è chiaro, è un titolo romanesco, diciamo. Quindi finalmente l'Unità mette al centro questa questione. Abbiamo sottolineato come nei giorni scorsi, benché l'Unità sia il giornale del PD e benché siano 3 giorni che per il PD quella di Roma era la questione, l'Unità non la metteva in prima pagina. Oggi sì, parte la fase 2 del Campidoglio, Marino rifà la giunta e promette il rilancio di Roma. E qui c'è un virgolettato di Renzi: quello scelto è questo, pieno sostegno del PD, ma la capitale non merita tutto questo degrado. La Gazzetta dello Sport, ve la cito perché, insomma, da queste amichevoli, tutte queste partite che ci sono nel periodo estivo, l'Inter è uscita, ha collezionato la terza sconfitta. Allora, primi dubbi all'Inter: Mancio, tutto ok? Mancio, naturalmente, Mancini, l'allenatore dell'Inter. Nessun gol segnato, contro centrocampo da rivedere. Nodo Kovacic, nel senso che appunto è uno dei giocatori su cui bisogna fare chiarezza. Intanto Jovetic però ha firmato e giustamente anche titolo, una gazzetta un po', beh, non proprio sdoppiata, il titolo principale comunque del calcio. Subito di fianco c'è invece Tania Cagnotto, un tuffo nell'oro, e all'interno trovate anche un'intervista alla tuffatrice, che naturalmente è entusiasta di questa spedizione ai mondiali di Kazan. Vi ho detto proprio in apertura di questa anticipazione che Fiorenza Sarzanini del Corriere ha sul documento di Alfano sulla mafia capitale. Trovate tutto a pagina 3, la relazione di Alfano sulla mafia, fatti gravi, il sindaco ha sottovalutato. È quello che si è detto spessissimo di Marino, cioè che i segnali c'erano ma che non sono stati colti. In particolare, in questo caso, non c'entrano i trasporti, o meglio, alla fine tutto è collegato, perché risorse che vengono buttate o che finiscono in corruzione non possono essere usate poi per esempio per i trasporti. Però qui si parla proprio di tutti gli episodi di corruzione che hanno coinvolto, lo sapete, tutte anche le cooperative, il famoso Buzzi che è in carcere, tutte le altre persone che sono in carcere. Quindi quelli erano i segnali che in questa relazione vengono definiti non colti dalla Giunta Marino e in particolare dal sindaco. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera un approfondimento su quello che sta succedendo in Turchia. Quindi Francesca Basso ci racconta di questo, ne abbiamo parlato un po' con Sergio Romano, lo commenta sul Corriere della Sera, questo accordo tra Stati Uniti e Turchia per, da una parte, dare le basi agli Stati Uniti per attaccare le posizioni dello Stato Islamico e poi però anche per purtroppo proseguire il conflitto tra il governo turco e i curdi, e in particolare il partito, il PKK, il Partito Nazionale Curdo. Veniamo al Sole 24 Ore. Come vi dicevo, a pagina 3 trovate il commento su questo grande accordo che c'è stato ieri di Italcementi per questa, tramite OPA, fusione con quella che viene definita fusione con Heidelberg, perché il colosso tedesco appunto rileverà il 45% della famiglia Pesenti. E poi un altro commento ancora che trovate a pagina 3 di Vittorio Carini: l'M&A, cioè il merger and acquisition obbligato per i big europei. Sapete che per esempio anche di fusioni si parla molto anche nel settore automobilistico, e oggi sul Sole tra l'altro ci sono nelle pagine di finanza anche alcune ipotesi su come si muoverà FCA, cioè la holding che controlla anche Fiat Chrysler. FCA sta per Fiat Chrysler Automobiles, e come si muoverà, come potrebbe muoversi sul fronte delle fusioni. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, che sappiamo è stata tagliata ieri di 2,3 miliardi di tagli, come abbiamo detto addirittura ne sono annunciati 5 volte tanto, ma vedremo dove arriveranno gli altri. Intanto ci sono questi. Il commento di Roberto Turno, esperto del Sole 24 Ore sulle questioni sanitarie: nel labirinto delle cure, dei bilanci da risanare, l'ho trovato a pagina 5, ma soprattutto a pagina 5 un'infografica che vi dà l'idea dei bilanci sanitari delle regioni, cioè chi spende di più, chi spende di meno, e anche gli effetti in questo decreto che ci saranno sui tagli che gli enti locali dovranno portare avanti. con, perché anche di questo trovate, forse anche Irene ne parlerà, cioè, ci sono già regioni che hanno fortemente protestato perché hanno già attuato negli anni scorsi politiche per risanare i loro bilanci e che adesso questi tagli, come dicevamo, sono lineari, orizzontali, chiamateli come volete, cioè a tutti vengono chiesti i risparmi, anche chi anche a chi nei passati anni ha già fatto risparmi. E allora, per esempio, il caso del nord è quello della Lombardia, ce lo racconta Sara Monaci. Alla Lombardia sono stati chiesti risparmi per 380 milioni. Dico sempre che la spesa sanitaria è la voce numero uno del bilancio dello Stato. Ecco, pensate che solo in Lombardia il budget complessivo per il settore sanitario è di 17 miliardi. Il caso del sud ce lo racconta Vera Viola, per la Campania il sacrificio ammonta a 200 milioni, ma dalla regione, ci ricorda Vera, da 5 anni alle prese con un piano di rientro che è già costato la perdita di circa 8.000 posti di lavoro. E sull'Expo, che insomma sembra come sempre, poi tutto il tempo passa velocissimo, ormai siamo alla fine di luglio, quindi Expo è a metà del suo percorso, è iniziato il 1° di maggio e finirà il 31 di ottobre. Allora, un'intervista di Marco Morino a pagina 10 con la presidente di Expo 2015, Diana Bracco, l'imprenditrice. Milano Marketplace Globale, la città si è trasformata in un gigantesco crogiolo di idee e di opportunità per le imprese, quindi proprio cercare di vedere tutti gli effetti positivi che già si possono certificare di Expo. Del resto, chi vive a Milano sa che, al di là magari delle proteste o delle ancora delle polemiche su quanti siano effettivamente i visitatori, a Milano c'è davvero, diciamo, da un mese prima che iniziasse Expo, un'atmosfera diversa, un'energia diversa, per non parlare di tutto quello che veramente praticamente abbiamo visto migliorare in città, oltre a quello che succede nel quartiere di Expo, che è appena fuori Milano. Sara Monaci, per parlare un pochino più di cifre, anche qui ci sono delle belle infografiche, a pagina 11 ci racconta questo giro di boa, appunto siamo a metà, è un'espressione velica per dire in generale, insomma, c'è una boa a metà regata, ecco, cioè, questo giro di boa tra pochi giorni lo faremo, si prepara lo sprint, in media 720.000 arrivi al mese nella metropoli, tra cui 40 capi di Stato e 60 ministri dal mondo. Sul dorso di norme e tributi non c'è Mauro Meazza, però lo pensiamo idealmente qui con noi. La copertina è dedicata alla stretta penale sui professionisti per le frodi al fisco, aggravante per i consulenti che elaborano modelli seriali per sfuggire al fisco, quindi un tentativo di frenare quella che a volte è stata magari una complicità tra i professionisti e i contribuenti per evadere le tasse. Vi segnalo un interessante approfondimento di Angelo Busani a pagina 18, sempre all'interno del dorso di norme e tributi, che riguarda i diritti civili, in particolare le nozze gay, di cui tanto si parla. Nozze gay celebrate all'estero, riconoscibili ma senza italiani. È un studio del Consiglio Nazionale del Notariato che appunto analizza questa questione e dà alcune indicazioni tecniche, perché poi siamo sempre, se no, a parlare o di quello che succede in altri paesi o di quello che potrebbe succedere qui, però tecnicamente qui adesso che inquadramento hanno le eventuali unioni gay, magari di due persone che sono andate all'estero per certificarla? Ecco, una prima ipotesi appunto a cura dei notai italiani, a pagina 38 del Sole 24 Ore. Ci lasciamo un attimo per il traffico e poi ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ancora vi parlo della sanità, perché è davvero un tema che ci tocca tutti e di cui parlerà Irene subito dopo di me. A pagina 7 della Repubblica trovate tantissimi approfondimenti e in particolare uno schema che riassume, tratto da un'elaborazione su dati dell'OECD Health Data 2013, un confronto tra la spesa sanitaria in Italia con la media europea, e la nostra spesa sanitaria tra l'altro risulta comunque inferiore della media di 14 paesi europei. Il titolo l'articolo in cui è inserito questo schema è di Roberto Petrini ed è intitolato "Domande, meno ricoveri e fisioterapie, rischio di pagare TAC e esami, cosa cambia con il decreto?". Continuano ad arrivare tantissimi messaggi da parte vostra e per esempio un'ascoltatrice ci chiede, è un argomento che abbiamo toccato ieri, com'è possibile che in Italia ci sia il più alto numero di risonanze magnetiche e di parti cesaree, sono due procedure procedure, risonanze magnetiche troppe vuol dire probabilmente esami inutili, e parti cesarei troppi vuol dire che probabilmente molti non sono necessari, e il parto cesareo rispetto a un parto naturale senza intoppi è naturalmente richiede un ricovero, una procedura chirurgica vera e propria con anche tutti i rischi connessi, per esempio possono essere due costi aggiuntivi nei tanti da tagliare, ma ci sono anche molti che sono spaventati dall'idea di questa privatizzazione della sanità, e lo spauracchio è sempre il modello americano, dove sapete che a volte non vi visitano neanche nei pronti soccorsi se non dimostrate di avere una carta di credito con cui pagare le prestazioni. Questo lo dico per esperienza personale, però è davvero così, e comunque si viene perseguitati, credo, fino al punto di morte con le eventuali bollette, i conti degli ospedali dopo che si è stati ricoverati per un certo periodo. Dalla stampa vi segnalo un sondaggio che ha commissionato la stampa sulla popolarità del governo. Renzi e il prezzo del governo, la fiducia scende ai minimi. A pagina 4 e 5 il premier scivola al 35%, però in Italia resta il leader più gradito. Per quanto riguarda la ripresa, gli elettori sono ottimisti, cresce però la paura per chi deve andare all'estero, naturalmente un po' per magari anche rischi sanitari, ma soprattutto probabilmente per i rischi legati al terrorismo, all'instabilità geopolitica. La stampa fa quest'opera meritoria, secondo me, di continuare a seguire il viaggio del presidente Obama in Africa. È la prima volta che Obama è andato in Kenya e poi adesso è in Etiopia, e ha parlato, ha dato, oltre a un evidente così viaggio diplomatico, però si è anche preso delle posizioni anche a sorpresa, se vogliamo. Per esempio, in questa tappa di cui dà conto Paolo Mastrolilli, appunto dall'Etiopia, da Addis Abeba, Obama, Bacchetta e leader africani, non esistono presidenti a vita. Il discorso fatto che ha tenuto ad Addis Abeba, appunto, ha anche detto: potrei vincere un terzo mandato, ma neanch'io sono sopra la legge. Sapete che negli Stati Uniti il massimo sono due mandati, tant'è che nel novembre 2016 appunto si voterà per la nuova presidenza. Obama farà altro, tornerà, magari farà solo tra virgolette il parlamentare, il congressman, o magari come il presidente Clinton diventerà così consigliere, terrà discorsi in giro per l'America. Comunque il presidente non lo può più fare dopo 8 anni. L'Avvenire torna sulla questione, che anche qui per un giorno titoloni sui giornali, poi adesso forse siamo in attesa di questo tavolo che il governo ha promesso di convocare sulla questione delle tasse sugli immobili occupati dalle scuole, in particolare l'esenzione che hanno avuto fino adesso le scuole cattoliche, e poi si è aperta anche la questione delle scuole paritarie. E allora oggi l'Avvenire: paritarie, le norme dimenticate. C'è un decreto che pare inutilizzato del 2012 però l'Avvenire, che segue con molta attenzione la questione, dice che è stato fissato per inizio agosto questo incontro appunto tra il governo e i rappresentanti del mondo associativo, perché, lo ricordiamo, questa decisione di eventualmente applicare, togliere l'esenzione dalla tassa sugli immobili alle scuole cattoliche è frutto di una sentenza della Corte di Cassazione, non è un provvedimento del governo, e quindi il governo, di fronte alle proteste delle scuole cattoliche, ha detto: convocheremo un tavolo. Vi dicevo del decreto sugli enti locali, che contiene anche molte cattive notizie sulle partecipate, ne parla il giornale. Ecco le 7 regioni che affossano i conti pubblici. Parlavamo delle elezioni americane, tra un po' sicuramente, ripeto, sono nel novembre del 2016, manca ancora tanto tempo. In America se ne parla già tantissimo, sapete che la candidata principale del Partito Democratico è Hillary Clinton, la moglie di Bill Clinton. Invece chi sta prendendo sta prendendo sempre più consensi nei sondaggi è uno dei candidati repubblicani, forse quello che a noi europei sembra il più improbabile, ma in realtà sta già appunto balzando in testa ai sondaggi, ed è Donald Trump. E allora Glauco Maggi da New York ci racconta un riporto per la Casa Bianca. Sapete che Donald Trump è famoso anche per questa sua capigliatura, questo riporto bizzarrissimo che ha. Trump kamikaze dei repubblicani. Donald è in testa ai sondaggi, attacca gli immigrati messicani, gli sfidanti e pure i miti del partito, come McCain, che era stato sconfitto nel 2008 da Obama nella corsa alla Casa Bianca. Ma il vero spettro per il GOP, il Grand Old Party, cioè il Partito Repubblicano, è che si candidi da indipendente. Ultima segnalazione dal Fatto Quotidiano, un fatto di cronaca che avete sentito, un lord inglese, cioè un parlamentare inglese che è stato busted, cioè beccato mentre sniffava cocaina, e aveva anche un reggiseno perché era questa cocaina, la sniffava in una specie di droga erotic party, si è dimesso due giorni dopo, scusate per l'imbarazzo. John Sewell lascia 48 ore dalla pubblicazione delle foto con prostitute e droga. In Italia si sarebbero scatenati i paladini della privacy, un po' di casi insomma li ricordiamo negli anni scorsi, anche di quel parlamentare del partito di Follini, mi sembra, che era stato appunto beccato in un droga party o comunque con una prostituta, non si è mai dimesso, anzi credo che adesso sia sindaco da qualche parte. Vi segnalo, per parlare un po' di cose un pochino più leggere, tutta la polemica che si è scatenata intorno a questo inno commissionato dalla Federcalcio, dal suo presidente Beretta, a Giovanni Allevi, compositore. Ieri su Twitter chi c'è stato insomma lo sa, è stato molto criticato, e allora le cose più gustose le trovate su Foglio. Breve storia di una truffa musicale ben riuscita, il titolo: cosa abbiamo fatto di male per meritarci l'inno della Serie A di Allevi. Il secolo XIX la prende un pochino più alla larga, pallonate sul pianista, e il Corriere della Sera: chi spara sul pianista. Qui lo spunto è la vicenda di Allevi, però in generale si cerca di riflettere un po' su queste critiche, così a volte aspre, forse a volte veramente ingiustificate, verso i nuovi compositori, cioè giovani musicisti che suonano strumenti assolutamente classici come il pianoforte o addirittura sono compositori, e però vengono attaccati dai, chiamiamoli, puristi della classica. Ultimissima segnalazione che vi faccio prima di dare la parola a Irene è la copertina di Radar, che è il supplemento culturale dell'Unità, perché è un argomento secondo me interessantissimo. Il titolo: L'altro Islam, un libro in Inghilterra analizza l'ateismo nei paesi arabi. Ebbene sì, esiste, fenomeno sconosciuto che proviamo a raccontarvi. Ci sono atei, anche se sono, dicono, poche centinaia, più che altro per la paura d'emersione, per la paura di ritorsioni in alcune situazioni se venisse proclamato questo ateismo. Giulia, una rassegna stampa interessantissima, ci hai dato mille spunti sulla sanità, naturalmente stanno continuando ad arrivare messaggi. Noi oggi ci chiederemo che ricadute ha sulla qualità della vita la sanità che stiamo per delineare, se andremo in questa direzione, perché bisogna chiedersi proprio da qui a 10 anni. C'è lo spauracchio del modello americano che tanti danni ha fatto, tu parlavi prima delle bollette che ti perseguitano una vita, gente che vende la casa perché ha avuto un attacco cardiaco, queste sono storie normali negli Stati Uniti, ma ci sono anche tanti altri timori sulla professione del medico, sui laccioli, sul condizionamento, sulla paura che porterà il medico magari a prescrivere un esame in meno pur di non venire poi penalizzato, e in termini anche pesanti. Sono tutte situazioni che svilupperemo in spunti di vista tra pochissimo. Alle 8:30 potete prendere parte alla discussione, il numero di telefono è l'800 24 00 24. Avete poi la possibilità di scriverci email a spunti di vista @radio24.it, andare sulla pagina Facebook di Spunti di Vista e mandarci sms 349 238 6666. Sì, continuano ad arrivare i messaggi, tra l'altro continuate a mandarli. Si parla per esempio delle liste d'attesa per gli esami. Chiaro. E spesso, lo sappiamo anche questo quasi tutti per esperienza, la vuoi fare nel pubblico, 2 mesi di lista d'attesa, la vuole fare privatamente, due domani. Mesi di lista d'attesa, sei proprio un ottimista. Si vede che non hai richiesto esami recentemente, ecco. Giulia Crivelli, grazie per questa rassegna stampa, buona giornata, l'appuntamento con te per domani mattina naturalmente. Noi ora diamo la linea al GR e poi torniamo insieme.